Rivivo attimi così lontani da sembrare sogni. Scrivo pagine colmandole per non sprecare giorni. Imprimo immagini, sensazioni e volti, souvenir per il mio album dei ricordi. 14 anni, improvvisavo il rap, le prime tag, le prime jam, freestyle in stare sui cartoni da breakdance. Un flash e apparteneva a questo mondo, un piccolo universo parallelo come microcosmos. L'esperienza in Belgio, sono cambiato in meglio e in peggio. L'adolescenza l'ho vissuta a pezzi come un patchwork. Vecchi tempi in cui l'hip hop si faceva spazio in me. Era un bisogno serio nel mio stereo di C9 Ganja Voodoo Clan. 2001 sono tornato a Sassari con un diploma e un mucchio di esperienze che mi hanno formato la persona. Gli anni a venire ho inciso, ho studiato, ho lavorato. Ho spinto, dipinto, convinto, mi sono innamorato. Qualche rammarico per occasioni perse, qualche amico che è andato, ma il fatto scherzi del destino che non ti programmi. Scrivi tra grammi e pentagrammi, qua tocca diventare grandi con soundtrack di rullanti. Vivo il mio presente, cerco di immortalare istanti. Faccio il rap con uno scopo, non cerco di cambiare il mondo perché avrà sempre lo stesso moto. Ad ogni modo chiedi a Raffa cosa resterà, soltanto un'altra foto fuori fuoco, soltanto cenere ogni volta che grido più fuoco. Altro che vita da mediano, e sembra strano, ma è la vita che ti mette fuori gioco. Rinchiuso in sta realtà, recluso in sta città, e come Nordesile Vanu porterà sullo scirocco. È il vento della mia memoria che trasporta fuochi fatti dei giorni in cui l'anima è risorta. Naufrago nell'oceano alla deriva su una zattera, messo a terra dal passato ma il presente passerà. È il vento della mia memoria che trasporta fuochi fatti dei giorni in cui l'anima è risorta. Naufrago nell'oceano alla deriva su una zattera, messo a terra dal passato ma il presente passerà. Io sono morto e risorto alla fine del 9-6, girando a vuoto, abbandonato dagli dèi. Ti chiedi dove sei un'ultima volta e non cerchi spalle su cui piangere, tutti le voltano. Persone da depressione, diverso fra tre persone, ma più ho scoperto me stesso che mi hanno soltato il nome. E l'illusione che tutto durasse in eterno, un pezzo, un passo, ognuno in fuga dal suo inferno. Ed ora ognuno a biura cambia sentiero o manovra, per altre vie il mio cuore muore mentre ci sputi sopra. Sopra ogni palco un'impresa, ogni mossa dal disturbo, occhiose se le ci presa diretta sulla Groovebox. Io non scordo FDN, non scordo il nome della gente. Se questo è per me, perché è stato e sa com'è. Come Alessia, Pelo, Domenico e Claudio, il loro fuoco cammina come ogni volta calzo l'audio. Ma è troppo tardi, una cazzo di canzone per farci risentire stranieri nella nostra nazione. Non siamo persi se ho ancora versi di passione. Io sono solo fra te, ma solo al core cos'è. Noi sempre a piedi tra linee, fermate blocchi, notti senza fine che ritornano da zocchi. Vivo il tempo perduto, ma io so chi lo vede ancora, perché la mia stessa luce nei suoi occhi. La mia memoria che trasporta fuochi fatui dei giorni in cui l'anima è risorta. Naufrago nell'oceano alla deriva su una zattera, messo a terra dal passato ma il presente passerà. È il vento della mia memoria che trasporta fuochi fatui dei giorni in cui l'anima è risorta. Naufrago nell'oceano alla deriva su una zattera, messo a terra dal passato ma il presente passerà.